una bella ragazza, poi mi versava da bere mentre tu, così lontana, no, non c'eri più. C'eri più e camminando senza più guardare, ho solo voglia di andar via da questo mare e pensa, ti ripensa, il tempo vola già. Mentre gli altri mi stanno chiamando e io non so che dire, e mi fermo indietro a ricordare che ho voglia di andar via da questo mare e camminando senza più guardare, ho solo voglia di andar via da questo mare. E tu adesso mi dici che non sai più bene cosa farai della tua vita, ma ovunque andrai non sarà mai finita, anche se tempo si scorderà dei tuoi vent'anni, le navi del porto sull'acqua non fanno rumore, c'è un battello che arriva seguito da barche e gabbiani. Se chiudo gli occhi pensando a domani, ho voglia di stringere ancora le tue mani e camminando senza più guardare, ho solo voglia di andar via da questo mare.